Allora cominciamo ringraziando per la disponibilità, direttore del Master, e iniziamo con questa esposizione a proposito dei luoghi dell'esposizione. And let's start with this exhibition and talk about the places of the exhibition. The exhibition has early works, a few early works to show how Richard Moss has started. In realtà i luoghi sono tanti. La mostra parte con alcune opere, poche, che però illustrano, diciamo, l'inizio della carriera di Richard Moss. E avremo alcuni esempi relativi al confine fra Messico e Stati Uniti, Kosovo, la striscia di Gaza e l'Iraq con l'invasione da parte dell'esercito statunitense. Poi abbiamo altri luoghi nel gruppo, diciamo, di opere principali, la prima delle quali riguarda il Congo. Il Congo che rappresenta nell'opera di Moss un lavoro davvero straordinario nella parte orientale del paese. Parte orientale del paese che da 500 anni è vittima di violenza, disastri e catastrofi, ma in particolare negli ultimi 25 anni, da quando c'è stato il genocidio del Ruanda, la violenza è stata davvero cresciuta esponenzialmente. Poi abbiamo una parte dedicata alla migrazione. Qui non c'è un solo luogo, ma più luoghi, sono soprattutto Grecia, Turchia e Libano. Vedremo dei campi per migranti, quella sorta di muro per migranti che l'Europa ha eretto per difendersi. E poi c'è il luogo della foresta pluviale. All'inizio era quella ecuadoregna, poi Moss si è dedicato alla foresta pluviale brasiliana, che vediamo in questa sala, e poi, come avremo modo di sentire più tardi, perché Moss è collegato da New York, ci parlerà, è appena tornato dal Brasile perché intende continuare a lavorare sulla distruzione della foresta pluviale brasiliana. Maybe a little bit out of training, because definitely. Allora, la sua è una domanda molto semplice, ma in realtà il tema è complessissimo, perché Richard Moss ha deciso fin dall'inizio della sua carriera che lui voleva essere un fotografo, un artista fotografico, e non un artista concettuale che si occupa soprattutto di ricerca e poi la accompagna con qualche istantanea, con qualche immagine. Lui invece crede fortemente nella forza, nel potere delle immagini, e noi abbiamo bisogno della forza delle immagini per poter vivere da lontano quello che succede, per poterlo agire anche in un qualche modo. Lui lavora con delle immagini in maniera tale che io definirei immagini immersive, in maniera tale che noi ci sentiamo dentro e che sentiamo anche una certa ambiguità rispetto all'immagine che abbiamo di fronte, ma lui vuole che noi ci siamo in questo modo. E io però non usa gli strumenti tradizionali, anzi lui sceglie diverse modalità di ottenere queste immagini a seconda del progetto. Abbiamo, ad esempio, nel Congo ha utilizzato una pellicola Kodak Aerochrome a infrarossi, che era stata inventata durante la Seconda Guerra Mondiale e serve a vedere, diciamo, persone che camminano, o oggetti o veicoli che camminano nella foresta. Cioè, fa vedere la differenza fra il fogliame, la clorofilla e altre persone o oggetti. Questa pellicola è fuori produzione, stava andando fuori produzione, anzi era già fuori produzione, ma è una pellicola che lui ha utilizzato per trasformare, secondo me, dice Style, per trasformare la realtà in surrealtà, in un qualche modo in un teatro, con un aspetto teatrale molto forte. Poi in heat maps invece non è la pellicola la cosa importante, è la telecamera che usa, la macchina che usa, perché con heat maps lui fa vedere cose che alla luce visibili non sono visualizzabili effettivamente. And paradox is what you're saying, and the paradox is... E il paradosso, che si vede molto bene nel Congo, ma non solo, il paradosso è che il Congo potrebbe essere il paese più ricco, più potente, più forte dell'Africa, perché ha una bellezza straordinaria, una bellezza incredibile, eppure ha una violenza incredibile, una quantità incredibile di violenza e di disastri che impediscono che questi potenziali si realizzino. Io direttore la ringrazio tanto del suo tempo e le auguro una buona giornata. And have a nice day. Lo stesso. And...